È arrivato Milanalino. Legge, commenta, spoglia, combattute piccanti. È arrivato Alino Milan, l'arrotino della comunicazione. 24 mattino. Siamo qui alle 7:18 minuti, dai che è venerdì, signori. Tra l'altro si chiude la 200ª settimana decisiva per l'abolizione delle province, nonché l'11ª decisiva per la riforma elettorale. Ma che meraviglia. Beh, caro presidente De Luca, è così. Pronto per la conduzione? Ci siamo, eh? Ci siamo quasi. Dilettantismo. Il mio immagino, non il tuo, perché... Farabutti di ogni tipo. Vabbè, questi da denunciare quando condurrai nella conduzione 4.0 di 24 mattino. Tutti zitti, certo. Va bene. Allora, qui nello spazio della rassegna stampa leggiamo i giornali, siamo pronti in questo venerdì, andiamo. Circo equestre. 3 marzo per la precisione, con i titoli che sono anche oggi tutti praticamente dedicati alla vicenda della inchiesta Consip che coinvolge il papà di Matteo Renzi. A parte il Sole 24 Ore che apre sul maggiore collocamento dell'high-tech sulla borsa americana dopo Alibaba, cioè Snapchat, l'ipo dei record, a Wall Street più 44% al debutto. Questo è il titolo di prima pagina. Per il Corriere della Sera andiamo sulla vicenda dell'inchiesta. Accordi e soldi per avere gli appalti. L'amministratore delegato di Consip dice: Russo mi ricattava per conto di Tiziano Renzi. Repubblica, pressioni dal padre di Renzi. Oggi per lui l'interrogatorio a Roma. Questo pressione dal padre di Renzi è un titolo virgolettato, è appunto l'amministratore delegato di Consip che accusa anche Verdini. La Stampa, assedio a Renzi, primarie in forse. Per il Fatto Quotidiano, così Lotti e compagni mi avvertirono su indagini e cimici in Consip. È il verbale esclusivo dell'amministratore delegato di Consip, Marroni. Il Messaggero, caso Romeo, la pista dei soldi è il titolo di prima pagina. Mentre il Giorno, l'arbitro delle carriere, c'è la foto di Tiziano Renzi. Anche il Manifesto mette la foto di Tiziano Renzi, il titolo eloquente è la festa del papà. La Verità, va in pezzi il sistema Renzi. Libero, Renzi deve dirci 2 o 3 cose. È obbligato a spiegare cosa è successo tra suo padre e chi gestisce i lavori per il governo. Come vedete, unanimi le aperture dei quotidiani. Voglio partire però da cosa? L'abbiamo sentito nel giornale radio, l'immigrazione. C'è questa cifra, 1 milione di migranti. Mi sembra che la notizia sia passata un po' inosservata, capisco, tutti concentrati su questa inchiesta giudiziaria e altre notizie, ma giustamente Beda Romano dedica una pagina a questo sul Sole 24 Ore, il Manifesto dedica una pagina con Leo Lancari a pagina 8, l'Unione Europea vuole espellere 1 milione di migranti, questo è il titolo del Manifesto, e leggo anche una pagina sul Corriere della Sera, pagina 15, 1 milione di migranti da rimpatriare, è il nuovo piano europeo con minaccia di sanzioni. Racconta Ivo Caizzi, leggiamo appunto dal Corriere, la Commissione Europea ha lanciato l'allarme sulla necessità di rimpatriare oltre 1 milione di migranti dall'Unione Europea perché non hanno i requisiti per essere accolti come rifugiati. In vista della discussione in agenda del Consiglio dei Capi di Stato il 9 e 10 marzo a Bruxelles, il presidente lussemburghese della Commissione, Juncker, e il commissario greco Avramopoulos hanno sollecitato anche aiuti per Italia e Grecia, che restano sotto pressione davanti ai flussi in arrivo. Avramopoulos ha presentato studi che stimano da rimpatriare oltre la metà dei 2 milioni di migranti arrivati. La Commissione europea ha presentato proposte ai governi per accelerare e meglio gestire le espulsioni verso luoghi d'origine. Ha stanziato anche 200 milioni. E si prevedono anche, e spicca, la richiesta di rinchiudere fino a 18 mesi chi deve essere espulso per impedirgli di fuggire e raggiungere altri paesi dell'Unione Europea. E quindi questa è una decisione che poi verrà discussa appunto nel Consiglio di Stato, ma nei consigli di capi di Stato, ma È una decisione sicuramente importante, numericamente molto influente. Metà dei migranti, 1 milione da rimpatriare. Avvenire apre su questo, ma con un taglio diverso. È il titolo di prima pagina. Il titolo di prima pagina ad Avvenire è questo. Mentre l'Unione Europea litiga, c'è chi assiste e salva. Si racconta infatti di un corridoio umanitario della CEI, la CEI è la Conferenza Episcopale Italiana dei Vescovi, che può anche è l'editore del quotidiano Avvenire, quindi giustamente dà ampio risalto a questa vicenda. La CEI sta mettendo a punto un primo corridoio umanitario. Dalla Siria arriveranno 41 migranti provenienti dai campi profughi in Giordania, con un aereo direttamente qui. Ed è un po' la via che, secondo molti, è la via più anche più sicura per i migranti, anche più controllata, quella di prevedere proprio dei corridoi umanitari, quindi controlli in origine, e chi ha diritto magari ad avere lo status di rifugiato, di profugo, con un corridoio umanitario, quindi con un aereo, viene comodamente, gli si risparmiano viaggi in cui rischiano di morire, e poi soprattutto vengono selezionati perché si sa già che hanno diritto ad avere lo status di rifugiati oppure di profughi. Questo Avvenire mette in ampio risalto. Oh, voglio rimanere all'estero, andare in Francia, perché in Francia c'è un dibattito che si intreccia molto sui temi che sono stati affrontati sui giornali anche in questi giorni in Italia. Ricordate la vicenda di DJ Fabo? E beh, anche qui c'è una storia che sta spaccando letteralmente il paese, la Francia, che riguarda una piccola bimba di 15 mesi e riguarda il tema del fine vita, del, questa espressione brutta, staccare o non staccare la spina. È la storia di Marwa, 15 mesi, che non ha mai parlato, mai parlerà, perché per un enterovirus fulminante, secondo i medici, è in una situazione di deficit motorio irreversibile, con danni neurologici permanenti, non camminerà, non mangerà, non può respirare da sola, non può sopravvivere. E allora, perché il paese si sta spaccando? Perché qui c'è una situazione un po' inversa rispetto a quello che si verifica di solito. Sono i medici a dire bisogna smetterla con le cure, usando questa brutta espressione appunto, staccare la spina e lasciarla morire. E i genitori invece dicono no, hanno fatto ricorso a un giudice. Ecco qui una pagina sul Giorno, fine vita, la Francia si spacca su Marwa, i medici, stacchiamo la spina alla piccola. Anche se la legge lo consente, racconta Elena Comelli, i medici possono staccare, contro il parere dei genitori, l'assistenza respiratoria a una bambina di 15 mesi con danni cerebrali gravi e irreversibili? È questa la domanda che si pone la Francia. E se la dovrà porre il Consiglio di Stato francese, perché la vita di Marwa è nelle mani dei giudici. Speriamo che prendano la decisione giusta, si augura il papà della di questa bambina, 33 anni. Ha fatto un sacco di progressi in questi 4 mesi, si vede che vuole vivere, insiste, sostenuto da 240.000 firme di una petizione mai senza Marwa. Per lui e per sua moglie Anissa, la luce negli occhi e i movimenti di Marwa sono segni di speranza. Per i medici, semplicemente riflessi involontari che non dimostrano uno stato di coscienza. E allora, chi deve decidere? Voi direte, la risposta più banale può dire, beh, i genitori. E invece ci saranno dei giudici, perché c'è un contenzioso tra medici e genitori. Volete una storia che è una storia diversa ma assimilabile, che ci porta invece qui, al di qua delle Alpi, ci porta in Italia? Oggi Repubblica è l'unico giornale che tira fuori questa vicenda di cronaca e che riguarda una bambina, anche qui gravemente malata, di 3 anni e con un tumore, curata a Milano, ma i genitori a un certo punto decidono di portarla in Israele per una cura, una terapia che secondo loro è una terapia migliore, più efficace. Ebbene, l'istituto dove è curata si rivolge ai giudici e chiede che ai genitori venga sospesa la potestà perché quella terapia in Israele viene considerata non scientificamente validata, mentre qui la bambina di 3 anni fa progressi per quel che riguarda la malattia, e i giudici vietano ai genitori di portare la figlia all'estero. Guardate qui, quella terapia non è sicura, il giudice vieta ai genitori di portare la figlia all'estero. Sono su Repubblica, pagina 21. La segnalazione alla procura per i minorenni arriva il 24 gennaio scorso. A inviarla è l'Istituto dei Tumori di Milano. Ai magistrati i medici raccontano la storia della piccola Elena, nome di fantasia, di soli 3 anni. Ha un tumore al cervello particolarmente pervasivo e aggressivo. L'istituto propone ai genitori un ciclo di chemioterapia e la bambina risponde bene. Poi a un certo punto i genitori della piccola decidono di contattare degli esperti internazionali in Francia e poi a Tel Aviv in Israele, avvisando i medici dell'istituto. La famiglia informa di volere trasferire Elena in Israele per una biopsia. L'istituto avverte i genitori della piccola delle probabili controindicazioni. La terapia seguita a Milano ha dato risultati confortanti. I genitori però insistono, decidono di interrompere la terapia a Milano e partire. E allora l'Istituto dei Tumori segnala alla procura le gravi conseguenze del cambio di cura e i magistrati decidono di chiedere al tribunale di valutare se esistano gli estremi per ridurre la responsabilità genitoriale fermando il trasferimento. I giudici accolgono le richieste e bloccano il trasferimento, motivando la decisione: le condizioni emotive difficilissime dei genitori hanno portato a interrompere una terapia efficace per affrontare una sorta di viaggio della speranza senza garanzie da un punto di vista clinico. È una storia che interroga tutti noi. Oggi Repubblica con Alessandra Corica, Emilio Randaccio e Franco Vanni la racconta, perché giustamente vuol dire cercare di capire poi chi ha l'ultima parola in caso di una cura per una malattia così grave per una bambina di 3 anni. In questo caso non l'ultima parola ai genitori. Ma eccoci qui, signori, siamo all'articolo invece questo che mi fa pensare della giornata. Da mani sul volante se siete nelle tangenziali autostrade di mezza Italia o mezzo mondo. Non facevano pagare le tasse ai politici. Indagati 9 dipendenti di Riscossione Sicilia, ve la ricordate? Avremo ospite ancora, dovremo fare una telenovela puntate con lui, con Antonio Fugnume Freddo, presidente di Riscossione Sicilia. Han trovato, racconta il giornale con Valentina Raffa a pagina 18, a Catania alcuni dipendenti di Riscossione Sicilia, cioè l'Equitalia siciliana, che hanno fatto di tutto per insabbiare i debiti dei politici regionali che devono pagare degli arretrati. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Alessandro Milan, le occhiaie dell'informazione. Abbastanza questo, devo dire. Allora, cari ascoltatori, dobbiamo concentrarci ora sugli sviluppi dell'inchiesta Consip, così viene definita. Ricordate che Consip è la struttura che gestisce tutti gli appalti nella pubblica amministrazione. È stato arrestato l'imprenditore Romeo, l'accusa anche che colpisce il padre di Renzi, Tiziano Renzi, traffico di influenze e aver fatto pressioni sull'amministratore delegato della Consip per assegnare appalti. Allora, Ivan Cimarussi e Sara Monaci oggi sul Sole 24 Ore raccontano: nell'inchiesta sugli appalti della pubblica amministrazione gestiti da Consip, gli occhi sono puntati su un presunto incontro a tre. L'imprenditore di Scandicci, Carlo Russo, indagato per traffico illecito di influenze, Alfredo Romeo, arrestato per corruzione, e il padre dell'ex premier Tiziano Renzi, indagato anche lui per traffico illecito di influenze. Non è chiaro se questa cena sia veramente avvenuta, ma è proprio da questo dettaglio che potrebbero dipendere le future accuse nei confronti di Renzi padre, che verrà ascoltato oggi dai magistrati. Altro punto da chiarire: Renzi padre incontrò anche Luigi Marroni, amministratore delegato di Consip non indagato? O questo incontro non è mai avvenuto? Ieri Tiziano Renzi è tornato a difendersi così, dicendo: non ho niente da nascondere, mai cene segrete con Romeo. La ricostruzione degli inquirenti descrive un possibile concerto tra Russo e Tiziano Renzi per ricevere somme di denaro mensili da parte di Alfredo Romeo, imprenditore finito in carcere, con l'accusa di aver corrotto un funzionario della Consip, Marco Gasparri. La remunerazione sarebbe servita a mediare verso l'amministratore delegato Marroni in relazione allo svolgimento delle gare. Tra l'altro l'Espresso, che ha anticipato questa cosa, sarà in edicola domenica, ha detto che l'amministratore delegato di Consip Marroni, in un precedente interrogatorio del 20 dicembre, sosteneva che Russo chiedeva di intervenire sui commissari di gara per conto del babbo di Matteo e del parlamentare di Ala Verdini. Quindi ci sarebbe questa frase, questa accusa precisa dell'amministratore delegato di Consip su Matteo Renzi, Tiziano Renzi, non sbagliamoci, perché sennò qui succede il putiferio. Tiziano Renzi, il padre di Matteo Renzi. Il giornale con Laura Cesaretti a pagina 3 titola in maniera molto dura: voci di manette per papà Renzi, perché oggi c'è l'interrogatorio, e il congresso PD a rischio rinvio. Ora bisogna vedere tutta la ripercussione politica, perché è inutile negare che a lì si guarda, no? Il sospetto sul pagamento al papà di Renzi, il dottore è soddisfatto, questo per esempio è il titolo di pagina 2, Giovanni Bianconi racconta sul Corriere della Sera. Ci sono una serie di intercettazioni, tra cui questa, quella in cui si parlava di andare a mangiare ogni mese una bella bistecchina a Firenze. E beh, insomma, fanno delle bistecche mica male. E poi parlavano del metodo della mattonella. Questo in intercettazioni fatte da dagli inquirenti, intercettazioni che riguardavano anche l'imprenditore Carlo Russo con l'ex deputato Italo Bocchino e con altri interlocutori. Anche qui in una intercettazione, racconta il Corriere della Sera, si chiede se il dottore, che nell'interpretazione dei carabinieri è Tiziano Renzi, aveva apprezzato l'atto, cioè quello di un pagamento, ricevendo risposta affermativa. L'interpretazione degli investigatori è che parole simili, e cioè il metodo della mattonella, mangiare la bistecchina, siano prove di avvenuti pagamenti, ma è un particolare, ovviamente, tutto da dimostrare. Però la questione politica c'è certamente, e infatti il Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione nei confronti di Luca Lotti, una mozione di sfiducia. Lotti ieri ha reagito con un tweet: noi seri, è una campagna vergognosa. Un tweet che è stato retweetato da Matteo Renzi, questa volta l'ex presidente del Consiglio in persona. Un Matteo Renzi che si sente sotto assedio. E qui infatti ci sono parole pubbliche zero, se non la fiducia nei magistrati, e poi stop. Goffredo De Marchis racconta su Repubblica nel retroscena di prima pagina, e poi continua a pagina 3, Renzi si sente sotto assedio. Ma questa è l'unica frase fatta trapelare ai suoi: nessuno mi farà rinunciare, dice ai suoi collaboratori. È il senso del post di Lotti su Facebook, è il senso di dire: non mi tirerò mai indietro, anche se aleggia una sorta di paura nel Partito Democratico, tanto che nel titolo è proprio messa così, la paura del PD, qui crolla tutto. Il timore c'è anche per il Fatto Quotidiano. Lampadina è il soprannome per il ministro dello sport Luca Lotti, così chiamato dagli amici. Lampadina è l'anello debole del governo Gentiloni Renzi. Il ministro Lotti, indagato per rivelazione di segreto, lui nega tutto, ma non ha mai denunciato per calunnia i manager che lo accusano, non ha mai chiesto di muoverli. Tra l'altro oggi il Fatto Quotidiano pubblica a pagina 2 in esclusiva il verbale dell'amministratore delegato Consip Marroni sulle soffiate, e cioè così Lotti e compagni mi avvertirono su indagini e cimici in Consip. Nei verbali, giura il fatto, ci sono guai per Lotti, perché l'amministratore delegato Marroni parlava di ricatto spregevole, tra l'altro, da parte di Russo e Tiziano Renzi e anche di interessi di Verdini. Guarda te, Verdini spunta il nome, e proprio ieri è arrivata la condanna. In primo grado, truffa e crack del credito cooperativo, Verdini condannato a 9 anni. Anche con interdizione perpetua dei pubblici uffici, è una condanna di primo grado, ma colpevole, racconta Marco Gasperetti sul Corriere della Sera, pagina 8, colpevole di bancarotta fraudolenta per il fallimento del credito cooperativo fiorentino di cui è stato presidente dal 90 al 2010. Colpevole anche di truffa per aver sottratto con complicati raggiri un fiume di denaro allo Stato, provvidenze per l'editoria, e ora gli vengono chiesti anche 42 milioni di danni. Caduta solo l'ipotesi di associazione per delinquere richiesta dall'accusa, ma Verdini è condannato in primo grado a 9 anni. Tra l'altro anche qui reazioni pubbliche poche, qualche sfogo, il retroscena della stampa, pagina 4. Quel PM, quei magistrati, quello, soprattutto si riferisce a quello che lo ha, come dire, ha fatto partire l'indagine, mi perseguita da 12 anni, ormai sono come il Viagra per lui. C'è questa immagine anche discretamente agghiacciante, la risposta e il commento di Verdini, che certo non si aspettava questa condanna. 42 milioni richiesti a lui. Caro Mauro Meazza, vedi che i conti pubblici si potrebbero sanare in qualche modo poi, no? Buongiorno! Buongiorno, ma caro Alessandro Lilan, che sì. Naturalmente è chiaro di chi sono le iniziali a questo punto, che sono state ritrovate. Le mie, si sa. Guarda, innanzitutto sai che per i conti pubblici ci potrebbero essere degli ascoltatori, ma anche tu stesso, interessati a rottamare, cioè a chiudere le pendenze con Equitalia. Pensavo a dare dei soldi. No, se vuoi farlo, io penso che sia sempre ben accetto. No, ma se per caso tu avessi qualche cartelluccia di Equitalia, oppure qualche ascoltatore l'avesse, ecco, inviterei a staccare e conservare religiosamente le pagine oggi di Norme e Tributi, che appunto si occupano di rottamazione, perché è il mese in cui bisogna decidersi se presentare o no l'istanza. Quindi attenzione, perché il tempo fugge e l'uomo non se ne avvede, come dice il poeta. Quindi, segnalato questo, poi voglio innanzitutto, anche per rispetto istituzionale, segnalare l'articolo da meditazione di oggi sul Sole 24 Ore, che è del presidente Sergio Mattarella, che parla della recessione geopolitica. Qui non c'è nulla da ironizzare, il tema è molto serio, lo vedi iniziare in prima pagina oggi sul Sole 24 Ore. Ho detto della rottamazione, invece ti voglio parlare di un rimborsuccio IVA che avanzavano dal 98-2000 in un'azienda, gli è stato negato e però invece alla fine il giudice ha dato ragione all'azienda. Quindi dopo 17 anni, quanto fa? Sì, più o meno, insomma 16-17 anni, finalmente è arrivato il rimborso, tutta la storia, tutti i particolari, non in cronaca ma nelle pagine di... Norme e Tributi. Bravissimo, vedi che le stai leggendo scrupolosamente. Religiosamente. Ricordati domani, so che sarai distratto domani sera, anzi sì. Ti faccio tanti cari auguri al proposito. Ah, giochiamo domani sera? Contro chi? Così ho appreso dal calendario, contro Chievo. Però ho sbagliato, vedi che avevo detto 1-1. Non ricordo questo particolare. Vabbè. Comunque domani, poiché domani sera sarai distratto, allora portati avanti domattina già, ricordati che c'è Plus, le pagine settimanali dedicate al risparmio. Tra l'altro domani questioni di risparmio e investimenti legate alle unioni civili e ai contratti di convivenza, cioè alle nuove disposizioni sulle unioni che sono in vigore, come sai, dallo scorso anno. Molto altro avrei da segnalarti, ma solo per non tediarti, guarda caro Alessandro, così che tu possa leggere con attenzione per la rottamazione delle cartelle. Ti segnalo che continuiamo nelle trattative per i voucher. Sì. La prossima settimana sarà quella decisiva, o per il closing del Milan o per il nuovo regime per i voucher. E ci sono naturalmente le pagine di Moda 24, essendo venerdì, e da ultimo, tra l'altro, vi voglio anche segnalare i dati sull'occupazione, migliora pochino, ne parliamo, migliora anche un pochino la disoccupazione dei giovani, che comunque resta sempre troppo alta, 37,9%, e su questo, caro Alessandro, cari ascoltatori, traffico! Alessandro Milan, l'arrotino dell'informazione. Arrota coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli da prosciutto. Aggiustiamo gli ombrelli. Coltelli da prosciutto, ragazzi, è un momento altissimo. Se la cucina fa fumo, noi togliamo il fumo della vostra cucina a gas. Allora, cari amici, da un po' di tempo il ministro allo sviluppo Calenda è descritto dai giornali come un politico che sta guardando in qualche modo al dopo voto, ai riposizionamenti politici. Questo almeno è il senso dell'articolo di oggi di Mario Aiello a pagina 7 del Messaggero. Ricordate, Carlo Calenda era quello che, quando Renzi ha detto bisogna votare, fece un'intervista sul Corriere della Sera molto secca a dire non bisogna votare perché l'Italia rischierebbe di essere travolta. Da allora, racconta il Messaggero, in qualche modo la cerca fiorentina se l'è legata al dito. Ora ancora all'attacco. Cosa ha fatto Calenda? Ha attaccato il bonus da 80 euro. Calenda smonta i bonus e guarda al dopo voto. Cosa ha detto Calenda? Per creare lavoro e reddito non esistono scorciatoie, non esistono invenzioni di redditi, invenzioni di lavori, invenzioni di bonus. Bisogna creare le condizioni perché le imprese possano assumere. Ha detto così alla cerimonia del Comitato Leonardo che si è tenuta nel sale del Quirinale. Ha detto di più: non credo sia compito del governo spargere ottimismo, né che sia compito dell'opposizione spargere pessimismo. Serve un percorso basato sul realismo e sulla complessità. Come scrive il Messaggero, ha citato Renzi? No, ma ovviamente parlava di lui. E dunque tutti dicono sarà lui in qualche modo il prossimo premier, o colui che punta a diventare premier, vedremo. Oh, c'è ancora un po' di caos tessere nel PD. Catania, file per la tessera da 4.500 a 8.000 in fila in poche ore. A Caserta c'è qualche problema con caos tessere. Va bene, lasciamo la politica, andiamo agli esteri. Vi segnalo una bella pagina di Fausto Biloslavo sul Giornale. È inviato a Mosul, Iraq, nord dell'Iraq, dove si combatte tra le truppe governative e i jihadisti dell'ISIS. A Mosul, Stalingrado dell'ISIS, tra gli scudi umani del califfo, racconta Biloslavo. Il tiratore scelto della polizia federale irachena prende la mira con calma dal tetto di una casa nel quartiere di Josak, a Mosul Ovest. Il suo fucile di precisione infilato in un buco nel muro di un piccolo terrazzo quadrato. Spara un colpo, poi un altro, si scatena l'inferno. I cecchini ceceni dello Stato Islamico, annidati a un centinaio di metri, rispondono al fuoco. Il fronte si infiamma. I ragazzini con la divisa blu a chiazze sono diventati veterani nell'offensiva che dura da ottobre per liberare la capitale del califfo in Iraq. Mosul Est è stata riconquistata, ma ad Ovest le truppe jihadiste dell'ISIS combattono fino alla morte, come le SS a Berlino. Sul tetto maledetto di Mosul siamo appiattiti a terra cercando di filmare lo scontro, ma soprattutto di portare a casa la pelle. Uno dei poliziotti in prima linea spara sventagliate di raffiche assordanti. Le bandiere nere rispondono al fuoco con una valanga di proiettili e ogni tanto il boato secco di un colpo di mortaio o di un razzo ci fa correre un brivido lungo la schiena, perché non si capisce da dove arrivano e chi colpiscono. La città è distrutta. Racconta così e inizia il reportage Fausto Biloslavo di quello che è la situazione a Mosul. La faccio vedere anche in diretta sulla mia pagina Facebook. In questo momento la situazione davvero è molto molto complicata e merita a Fausto Biloslavo che la racconta. Oh, c'è da dire che eh sì, abbiamo sentito, è il giorno in cui ci dovrebbe essere il closing del Milan. Il tono si fa greve. Devo dire oggi chapeau a quell'interista di Michele Serra che dedica a questo la maca in prima pagina di Repubblica. Interista, però bravo, interista, però una bella maca. Scrive Serra: a Milano non si parla d'altro, con un sorriso contagioso, così contagioso che supera il tradizionale bipolarismo e finisce per coinvolgere anche quella parte della città che dovrebbe essere sulle spine, i milanisti. Perché la storia dei misteriosi cinesi che dovrebbero comprare il Milan ma forse non lo comprano, che sono cinesi ma forse non del tutto, che hanno già firmato ma a loro insaputa, che hanno a disposizione un capitale di 1.000 miliardi ma non riescono a trovare i soldi per il taxi da Malpensa a Milanello, che forse nicchiano perché se il loro governo si accorge che tengono i quattrini alle Isole Vergini, nello sportello accanto a quello del Berlusca, fanno la fine della banda dei quattro, che sulla carta sono una holding ma anche una banca, ma anche un gruppo finanziario, ma anche un colosso dell'edilizia, ma forse sono Totò in un bianco e nero degli anni 50. Beh, è una storia fantastica. I dietrologi più efferati lasciano intendere che sia Silvio stesso, travestito da Fu Manchu, compresa l'unghia del mignolo lunghissima, a ricomprarsi il Milan. La mia ipotesi è che esista invece un vero Berlusconi cinese, tal quale il nostro, che per far colpo sulle ragazze al tabarin più famoso di Pechino ha detto «Domani compro il Milan!» e adesso è costretto a farlo, davvero. Non lo so se è così, complimenti a Michele Serra, effettivamente touché. Interista. Va bene, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi Marinella Meroni racconta che il cane su Libero, il cane sa imitare le espressioni del viso, i gesti del padrone. Un boxer, immagino un boxer. Un alano. Ma chi se ne frega!